L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti, siamo pronti con le sette notizie principali dell'ultima settimana, cominciata sabato scorso 25 ottobre, che si è conclusa proprio ieri. La formula ormai la conoscete del programma, i servizi, le interviste e i commenti sono andati in onda come sempre nei GR di Radio 24. Sabato. Torniamo esattamente a sette giorni fa, la manifestazione del Partito Democratico al Circo Massimo a Roma. È la prima vera chiamata a raccolta dell'opposizione dopo il voto di aprile, quindi c'è molta attesa, ci sono anche delle polemiche che anticipano il grande appuntamento del Circo Massimo. Tra l'altro, a caricarla di significati c'è anche lo scontro durissimo sulla scuola e sulla riforma del ministro Gelmini. Poi ci saranno tensioni e scontri anche nel corso della settimana, ne parleremo tra poco. Ascoltiamo la cronaca di Elisabetta Fiorito in diretta nel GR delle 19 di sabato e poi Paolo Panceri sulla reazione di Berlusconi, che arriva da lontano perché Berlusconi si trova a Pechino per il vertice tra i leader europei e asiatici. Un Circo Massimo affollato di bandiere, ombrelli, cappellini targati PD, 2.500.000 persone secondo gli organizzatori, appunto per manifestare contro il governo Berlusconi e proporre un'altra Italia. Al termine il comizio conclusivo del segretario del Partito Democratico Walter Veltroni, che ha più volte attaccato l'esecutivo. Sentiamo. Il problema è che il governo Berlusconi è totalmente inadeguato a fronteggiare la gravissima crisi economica e sociale che stiamo vivendo. E lo è per una semplice ragione, perché non ha nel cuore l'Italia che produce e che lavora, l'Italia che soffre. Le tasse stanno aumentando, avverte Veltroni, che propone di ridurre quelle sulla tredicesima di lavoratori dipendenti e pensionati. Per rilanciare l'economia, dice poi, serve un patto tra produttori. Sulla scuola, propone Veltroni, la destra ha creato la cultura del vuoto, la loro scuola e la televisione, e il segretario del PD torna a chiedere il ritiro del decreto Gelmini. L'Italia è un paese migliore della destra che lo governa, conclude Veltroni. La manifestazione del Partito Democratico non ha impensierito il governo. Dalla Cina, poco prima dell'inizio della manifestazione, il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha infatti espresso grande tranquillità e ha sottolineato che l'iniziativa del PD cerca di nascondere le divisioni al suo interno. Nessuna preoccupazione. Sono contento che non piove, così non possono dire piove governo ladro. I leader della sinistra hanno garantito che sarà una manifestazione serena, facciamogli credito, non ci sarà nemmeno nessun cambiamento nell'azione del governo e della maggioranza. Quindi questa qui è una manifestazione per uso interno della sinistra, interna corporis, per le loro divisioni e per marciare contro il governo. Tutto qui. E nel Popolo delle Libertà anche Alleanza Nazionale del parere che la manifestazione del PD non cancella il fatto che la maggioranza degli italiani sostiene il governo, come spiega il capogruppo al Senato Maurizio Gasparri. Manifestare è un diritto, ma inviteremmo Veltroni a stare con i piedi per terra. Una mobilitazione di partito non cancella il fatto che la stragrande maggioranza degli italiani sono dalla parte del centrodestra, dalla parte del governo Berlusconi. Dello stesso parere anche Gianfranco Rotondi, ministro per l'attuazione del programma e segretario nazionale della Democrazia Cristiana per le Autonomie, secondo il quale due terzi degli italiani stanno con il governo. La manifestazione è sicuramente una vittoria di e per Veltroni, al di là poi delle polemiche, per la verità molto stucchevoli sulle cifre, 2.500.000, 200.000, insomma, in fondo chi se ne importa quanti erano comunque tanti perché il Circo Massimo era davvero pieno. Adesso comunque per il leader dell'opposizione viene il difficile, perché bisogna dare un seguito e anche concretizzare in azione politica il successo della manifestazione. Questo è il commento di Stefano Folli. Il grande raduno del Circo Massimo è stato un successo popolare ed è servito a rincuorare i militanti del Partito Democratico, a restituire loro un po' di slancio dopo tante frustrazioni. Sotto questo aspetto Veltroni può essere soddisfatto. La giornata di ieri è anche la sua legittimazione, quasi un ritorno allo spirito delle primarie. Tuttavia la politica da oggi torna a chiedere risposte chiare. L'identità del Partito Democratico continua a essere incerta. Cos'è il riformismo di massa cui ha accennato Veltroni? Ieri non si è certo capito il significato di questa espressione. Del resto l'identità riformista dell'opposizione esige un lavoro di lunga lena sui temi concreti dell'economia e delle istituzioni. Ieri era piuttosto la giornata dell'orgoglio democratico, intessuta di attacchi a Berlusconi, come logico. Le contraddizioni però sono rimaste tali, a cominciare dal rapporto con gli alleati, e infatti Di Pietro, con cui i rapporti sembravano rotti una settimana fa, era tra la folla festeggiato e di nuovo amico. Le polemiche sulla manifestazione del Circo Massimo proseguono per giorni e il clima in Parlamento è invelenito anche per tanti altri fattori. Ad infiammare gli animi su tutti c'è soprattutto la discussione sul decreto Gelmini, tra poco, come ho già ricordato, ne parleremo, ma ci sono altri fronti di scontro. Per esempio si discute animatamente in Parlamento sulla riforma elettorale per le europee. L'anno prossimo si vota per Strasburgo e la settimana prossima alla Camera è prevista la votazione del testo. Due in particolare sono i punti critici, l'abolizione delle preferenze e lo sbarramento al 5%. Martedì interviene nel dibattito addirittura il Capo dello Stato. Sentiamo il servizio di Raffaella Calandra. Chiede condivisione, auspica proposte costruttive. Sulla riforma elettorale europea il Capo dello Stato invoca il dialogo, ma Silvio Berlusconi chiude: è impossibile. Quando si tratta di modificare regole tra le più importanti, ribadisco la convinzione, ammonisce Napolitano, che sia da ricercarsi un ampio consenso in Parlamento. Le preoccupazioni del Presidente abbracciano anche la difesa del pluralismo politico, come un diretto legame tra gli eletti e i territori. Insomma, sì alle preferenze, no ad una soglia di sbarramento troppo alta, sembra leggersi in filigrana tra le parole del Capo dello Stato, le cui indicazioni però per un ampio consenso cadono nel vuoto. È impossibile con questa opposizione, chiude il Premier. Ci troviamo sfortunatamente ad avere una opposizione che opportunisticamente approfitta di questi momenti per continuare a portarci uno scontro frontale. Silvio Berlusconi difende il testo varato in commissione che alza al 5% lo sbarramento e abolisce le preferenze. Così la politica è più pulita, dice, ma se non sarà approvato non mi strapperei certo i capelli. Opposta alla posizione del PD, il segretario Walter Veltroni. Noi siamo contrari all'abolizione del voto di preferenza, la nostra posizione è per una soglia del 3%. Anche in questi ultimi giorni tra i ministri in prima fila, in prima linea e più in vista c'è l'eterno Brunetta. Prima lancia la sua ultima campagna, quella per introdurre i tornelli per i pubblici ministeri nei tribunali, poi giovedì diventa spettatore molto interessato delle manovre dei sindacati sul contratto per gli statali. Paolo Pancieri. Spaccatura nel sindacato sul rinnovo del contratto del pubblico impiego. Infatti, mentre CISL, UIL, UGL e CONFSAL hanno firmato il protocollo d'intesa proposto dal governo per il 2008-2009, la CGL invece non ha siglato il documento. Secondo il segretario della CGL, Guglielmo Epifani, la mancata firma è dovuta al previsto aumento del 3% nel biennio, cioè meno dell'inflazione reale. Inoltre, per Epifani non c'è nulla sui precari e si confermano tutti i tagli. Il numero uno della CGL, inoltre, rincara la dose. Ci dispiace che CISL e UIL abbiano fatto una scelta diversa, è la prima volta che questo avviene nel settore pubblico. Secondo noi si tratta di un errore che non resterà senza conseguenze. Soddisfatto invece il ministro della funzione pubblica, Renato Brunetta. Io sono certamente soddisfatto, ripeto, contratto per i lavoratori pubblici, 3.650.000 lavori pubblici. In questo clima economico difficile, mettendo a disposizione 6 miliardi di euro per il biennio 2008-2009, penso sia un grande risultato. Per chiudere questa prima pagina politica della puntata di oggi dell'Ottavo Giorno, riascoltiamo un pezzo dell'intervista che Vanessa Colangiuli ha fatto al senatore a vita e tante volte primo ministro Giulio Andreotti. L'intervista è andata in onda martedì nel GR Extra Large ed è soprattutto una riflessione sull'Europa. 50 anni fa il Trattato di Roma, quanta strada si è fatta nel costruire l'Europa unita? Se guardiamo a come era il nostro desiderio, forse abbiamo fatto un po' meno, però se pensiamo al fatto che partivamo non da zero ma da sotto zero, il cammino fatto è comunque rilevante. L'essenziale è non addormentarsi, sentire sempre lo stimolo che man mano che cresce questa Europa i problemi devono essere sempre di più affrontati congiuntamente e non più separatamente dai singoli stati. Cosa ne pensa, Presidente, dell'Europa in questo particolare momento di crisi economica? Purtroppo risentiamo di quella che è una situazione mondiale e qualcuno può avere nostalgia, ma sbaglierebbe, a quando in fondo l'Europa era privilegiata rispetto al resto del mondo. Oggi anche il resto del mondo ha camminato, noi forse abbiamo camminato un po' meno. L'ottavo giorno. Domenica. Ormai siamo arrivati davvero agli sgoccioli di questa campagna elettorale americana, incredibile, la più lunga forse che si ricordi, davvero appassionante. Barack Obama e John McCain devono sparare gli ultimi colpi prima di arrivare a martedì 4 novembre. In Italia sarà probabilmente già l'alba di mercoledì, quando sapremo finalmente chi dei due sarà il successore di Bush alla Casa Bianca. Dopo una corsa che è cominciata ormai più di un anno e mezzo fa, soprattutto per Obama, in queste ultime ore i due candidati stanno battendo gli stati più incerti, la Florida per esempio, ma anche l'Ohio, la Pennsylvania addirittura, che i sondaggi danno saldamente in mano ad Obama, ma che McCain continua a dire di poter vincere, e ci sono in palio 21 elettori, quindi la vittoria di questo stato può davvero fare la differenza. Sentiamo però il punto della situazione aggiornata domenica scorsa, giorno in cui Bill Clinton annuncia la sua presenza a fianco di Obama in Florida, cosa che infatti accadrà puntualmente a metà settimana. Ma le notizie più grosse arrivano dal campo repubblicano, come ci spiega dagli Stati Uniti Mario Platero. Siamo arrivati a quota meno 9 giorni alle elezioni americane, alla scelta del presidente che dovrà confrontarsi con una delle più gravi crisi economiche degli ultimi 60 anni e che dovrà rilanciare l'ottimismo e la fiducia del paese. Ciascuno dei due candidati, John McCain e Barack Obama, sta battendo gli stati incerti, gli stati che potrebbero determinare la vittoria dell'uno dell'altro, e i sondaggi per ora confermano che Barack Obama si trova in vantaggio non soltanto numerico ma anche psicologico. Abbiamo saputo proprio negli ultimi giorni che i rapporti tra la Palin, Sarah Palin e John McCain si sono deteriorati. Segnale questo che forse la campagna McCain è davvero in difficoltà e che alla fine la Palin non è stata la scelta giusta. Secondo la migliore tradizione americana, questa campagna elettorale non si fa mancare nulla. E così lunedì veniamo a sapere di un piano razzista e nazista sgominato per uccidere Obama. Bisogna dire che mentre i giornali italiani danno ampio, forse troppo risalto ai progetti di questi due giovani un po' squilibrati, i giornali americani preferiscono il basso profilo. Intanto i due candidati si marcano stretti, parlano a breve distanza uno dall'altro negli stati chiave, e ci racconta tutto questo servizio di Sergio Nava. Un piano a sfondo razziale per uccidere il candidato democratico Barack Obama è giunto come un fulmine a ciel sereno sulla campagna elettorale all'annuncio della rete Fox News. Il folle progetto faceva perno su due ragazze di 18 e 20 anni, Paul Schlesselman e Daniel Coward, giovani simpatizzanti neonazisti del Tennessee e dell'Arkansas. Prevedeva l'uccisione e la decapitazione di 102 studenti neri di una high school in un crescendo di sangue e violenza che avrebbe portato all'assassinio dello stesso Obama. Un piano più squilibrato che realistico, tanto da apparire poco credibile. La notizia ha chiuso una giornata segnata dalle arringhe finali dei due candidati alla Casa Bianca. Sia Obama che McCain hanno parlato dall'Ohio, stato decisivo per la vittoria finale. Obama ha avvertito i suoi sostenitori: non abbiamo ancora vinto. Il suo discorso, imperniato su un messaggio di unità, è stato largamente dominato dall'economia. Obama ha promesso di tagliare le tasse al 95% degli americani e si è scagliato contro le politiche liberiste dei repubblicani, colpevoli solo di aver fatto ingrassare le grandi corporazioni. John McCain ha parlato anche lui di economia, ma con un occhio alla pancia degli elettori. Il messaggio è sempre lo stesso: Obama vi metterà le mani in tasca per dare i vostri soldi a qualcun altro. Intanto i sondaggi riducono a 5 punti di media il vantaggio del candidato democratico, che resta comunque sopra quota 50%. Sergio Nava ha appena evocato i sondaggi, che sono un punto di riferimento, poi vedremo fino a che punto attendibile di questa campagna elettorale. Bisogna dire che ne arrivano a valanga tutti i giorni, e a leggerli e a guardare le mappe degli Stati Uniti, che si colorano di rosso e blu a seconda che gli stati vengono assegnati ai repubblicani e ai democratici, davvero gira la testa. Vedremo poi appunto se saranno attendibili, perché affidarsi comunque dei sondaggi non ci dovrebbe essere storia in favore di Obama, ma già tante altre volte abbiamo visto delle sorprese proprio al momento del voto. E veniamo alla giornata di mercoledì. I due candidati, McCain e Obama, sono in Florida. In particolare c'è Obama molto attivo, che si trova al fianco Bill Clinton, che gli dà in qualche modo la sua benedizione all'investitura di presidente degli Stati Uniti, però dice: attenzione Barack, consulta me e mia moglie Hillary quando sarai presidente. I due parlano davanti a 35.000 persone. Poi in serata, in concomitanza con la finale del baseball, che vede la vittoria storica dopo tanti anni di Philadelphia, va in onda a reti unificate un mega spot voluto da Barack Obama. Ci racconta tutto Valentina Furlanetto. Everywhere I go, despite the economic crisis and war and uncertainty about tomorrow, Se andrete a votare per me, cambieremo questo paese, cambieremo il mondo. Così si chiude il mega spot che Barack Obama, con la vittoria a un passo ma non ancora in tasca, ha voluto che fosse programmato su diversi network televisivi americani, in prima serata e senza interruzioni. Mezz'ora che sembra più un documentario che uno spot elettorale e che è costato al candidato alla Casa Bianca tra i 3 e i 6 milioni di dollari. Obama ha alternato momenti di dialogo con i telespettatori, schegge di comizi della lunga campagna elettorale e storie di gente comune, storie drammatiche, commoventi, di donne e uomini che fanno fatica a far quadrare il bilancio familiare, a mandare i figli al college, a resistere alla crisi, storie del Kentucky, dell'Ohio, della Florida e del New Mexico, gli stati più in bilico. McCain ha commentato con stizza alla CNN, intanto però l'ultimo sondaggio Zogby, che solo ieri dava 5 punti di vantaggio ad Obama, ora ne registra 7. In attesa del gran finale di martedì notte, questa settimana Radio 24 ha presentato un viaggio all'interno di questa corsa appassionata per la Casa Bianca, viaggio che è stato curato da Sergio Nava. Ecco la puntata andata in onda nel GR Extra Large di martedì. In tempi di crisi non c'è niente di meglio, soprattutto se di mezzo c'è una campagna elettorale, che parlare di tasse, rassicurando ovviamente gli elettori, meglio se della classe media, sul fatto che lo Stato non preleverà altri soldi dalle loro tasche. John McCain intende rendere permanenti quasi tutti i tagli fiscali già avviati da George Bush, dopo essersi opposto nel 2001 e nel 2003. Il candidato repubblicano vuole pure aumentare gradualmente l'esenzione fiscale per i lavoratori dipendenti, portandola a $7,000 nel 2016. McCain, che non disdegna neppure l'idea di semplificare il sistema fiscale, portandolo a sole 2 aliquote, vuole ridurre la tassa sul capital gain al 7,5%, ma solo per 2 anni, e intende ridurre anche la tassa sulle imprese, portandola dal 35 al 25% entro il 2015. Barack Obama intende invece innanzitutto annullare la riduzione delle imposte accordata da George Bush a chi guadagna oltre $250,000 l'anno e chiede di estendere i tagli alla classe media, eliminando del tutto i prelievi fiscali sui pensionati che guadagnano meno di $50,000 l'anno. Obama intende, a differenza di McCain, portare la tassa sul capital gain dal 15 al 20% per chi guadagna oltre $250,000 e mira a un giro di vite sulle falle legislative che permettono alle aziende di evadere il fisco. Lunedì. Era da un po' di settimane che mancava dalle cronache dell'ottavo giorno la questione Alitalia, ma questa volta non potevamo lasciarla fuori perché Alitalia torna al centro di giorni turbolenti e di nuovo incerti. Sembra soprattutto che ieri la situazione sia drammaticamente precipitata. Ci arriviamo a quello che succede venerdì. Noi ricominciamo il nostro racconto della settimana di Alitalia da lunedì, perché quel giorno alle 19 comincia la nuova trattativa tra CAI e sindacati sui contratti della nuova Alitalia. Le premesse però fanno subito capire che sarà una lunga settimana per la nostra compagnia aerea. Vincenzo Miglietta. Il trasporto aereo italiano targato CAI riparte da 12.000 nuove assunzioni, 1.550 piloti, 3.300 assistenti di volo, 7.150 lavoratori di terra. In particolare 9.000 faranno riferimento a Fiumicino, circa 1.500 a Malpensa, il resto agli altri scali della penisola. Da definire tra aziende e sindacati vi sono poi gli altri aspetti del piano industriale a partire dalle rotte. Vi è inoltre il delicato fronte del rinnovo dei contratti. La compagnia aerea italiana punta al modello unico con riferimento a contratto di Air One, ipotesi già bocciata però dai piloti, così Massimo Notaro, UP. Contratto unico che noi assolutamente non possiamo accettare e ci sembra anche nei fatti che sia una cosa illogica, non esiste in natura. Sul fronte contratto c'è ancora da lavorare anche per il personale di terra, dice Andrea Cavola, SDL. Molta calma, molta freddezza, nessun ultimatum, ne abbiamo visti troppi in questa vicenda e le cose si fanno al momento giusto. Il nodo esuberi, infine 3.350, il decreto Alitalia è legge, gli ammortizzatori sociali sono a disposizione, ma resta la difficoltà per aziende e sindacati di individuare i lavoratori che resteranno fuori dal decollo della CAI. Il giorno successivo, cioè martedì, a Milano si riuniscono i soci della CAI, che sono esattamente 16, i quali vanno avanti per la loro strada, come ci racconta questo servizio di Valeria De Rosa. L'aumento di capitale è stato varato fino a 1,1 miliardi di euro, le cui azioni saranno offerte in parte agli attuali e in parte ai nuovi soci. La società è stata trasformata da SRL a SPA, quote bloccate per 5 anni e un consiglio di amministrazione nuovo di zecca che si riunirà venerdì. La soddisfazione è palpabile nelle parole di Rocco Sabelli, amministratore delegato. Compagine compatta, è stato fatto ciò che avevamo in programma. Adesso abbiamo un sacco di cose da fare tutte nei prossimi 2 o 3 giorni. Il lavoro che resta da fare va dai nuovi soci alla scelta del partner straniero. La scadenza per la presentazione dell'offerta vincolante è venerdì 31, anche se, come ricorda il presidente Colaninno, si tratta di una scadenza vincolata. Questa offerta sarà presentata se entro quella data ci sarà l'accordo con i sindacati e questa offerta diventerà esecutiva dopo l'approvazione dell'operazione da parte di Bruxelles. La giornata chiave però nella settimana di Alitalia CAI, chiamatela un po' come volete, è però quella di venerdì, di ieri. Infatti all'inizio ci sono alcuni sindacati che firmano il protocollo d'intesa, altri che dicono no, in particolare i rappresentanti autonomi dei piloti e degli assistenti di volo. La CAI a quel punto prima decide di ritirarsi dal tavolo, poi ritorna, ci ripensa, insomma vediamo come finisce questa convulsa giornata di venerdì. Arriva in serata al termine di una giornata frenetica il via libera di CAI all'offerta di acquisto di Alitalia, oltre 1 miliardo di euro, la cifra messa a disposizione dalla cordata di imprenditori guidata da Roberto Colaninno per rilanciare la compagnia di bandiera, un traguardo che era sembrato molto lontano nel pomeriggio dopo le divisioni emerse fra i sindacati nel corso della mediazione tentata a Palazzo Chigi dal sottosegretario Letta. Solo CGL, CISL, UIL e UGL alla fine hanno firmato l'accordo proposto da Letta su contratti e selezione del personale della nuova Alitalia, così il segretario generale della UIL Trasporti, Caronia. Abbiamo evitato alla fine una tragedia sociale, perché questo era il tema di oggi, probabilmente qualcuno non se ne è reso conto. Niente firme invece per le 5 sigle autonome di piloti e assistenti di volo, così il presidente dell'ANPAC, Berti. Non avevamo voluto altro che attenerci a quanto firmato a Palazzo Chigi con lo stesso governo e con la stessa CAI. Invece è stato abbandonato, è stato fatto un altro lavoro. L'accordo separato coi sindacati è stato comunque ritenuto sufficiente alla fine dalla CAI, che ha tuttavia vincolato la sua offerta al via libera all'operazione da parte dell'antitrust e dell'Unione Europea. L'ottavo giorno, martedì. E adesso facciamo una rapida virata verso la cronaca nera, perché ci sono 2 casi molto diversi tra di loro, ma entrambi purtroppo drammatici, che arrivano ad una prima, ma non ultima, sentenza. Martedì, infatti, in serata, sono circa le 21:30, viene emessa la sentenza per Rudy Herman Guédé, uno degli accusati dell'omicidio la notte del 1° novembre di un anno fa di Meredith Kercher a Perugia. E sentiamo proprio da Perugia il servizio di Daniele Morini. Ha trovato conferma nelle decisioni del giudice per l'udienza preliminare la ricostruzione che i pubblici ministeri hanno fatto dell'omicidio di Meredith Kercher, la studentessa inglese uccisa quasi un anno fa a Perugia. Il GUP Paolo Micheli, dopo 11 ore di camera di consiglio, ieri sera ha condannato a 30 anni Rudy Guédé, che aveva scelto il rito abbreviato, e ha inviato a giudizio Raffaele Sollecito e Amanda Knox, che ora rischiano l'ergastolo. Per lei e per il suo compagno pugliese arriverà oggi la decisione sulla richiesta di arresti domiciliari, già fissata la data della prima seduta davanti alla Corte d'Assise. Raffaele e Amanda inizieranno tutto da capo dal 4 dicembre, dunque tutti e 3 colpevoli, secondo i magistrati, di omicidio e di violenza sessuale in concorso. Per i 2 fidanzati c'è anche l'accusa del furto di 300 euro e di 2 carte di credito della vittima. Sconcertati per la decisione, gli avvocati di Guédé, presenti alla lettura della sentenza anche i genitori di Meredith, che hanno dichiarato di essere soddisfatti perché giustizia è stata fatta. Naturalmente il caso di Perugia non finisce qui, adesso dobbiamo vedere come andrà il processo per gli altri 2 imputati, Raffaele Sollecito e Amanda Knox, la ragazza di Seattle che, tra parentesi, ha fatto arrivare a Perugia tantissimi reporter americani. Mercoledì, altra sentenza molto attesa, ci spostiamo a Roma. Infatti sto parlando della sentenza per il processo per la morte di Giovanna Reggiani, che un anno fa venne aggredita e uccisa a Tor di Quinto. L'omicidio, poi ricorderete sicuramente, avrebbe scatenato molte polemiche e avrebbe anche avuto un peso importante, forse decisivo, nella campagna elettorale per la scelta del nuovo sindaco di Roma. E sentiamo proprio da Roma Andrea Viali. Non l'ergastolo, come chiesto dall'accusa, ma 29 anni di carcere. Questa la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Roma a Romulus Mailat. Per i giudici che gli hanno concesso le attenuanti generiche, fu comunque lui ad aggredire e uccidere Giovanna Reggiani il 30 aprile dello scorso anno. Ieri, per la prima volta dall'inizio del processo, il 25enne romeno ha preso la parola in aula, chiedendo perdono per aver rubato la borsa della donna, ma negando di averla uccisa. Il suo difensore annuncia ricorso in appello contro la sentenza di condanna. Ricorreremo in appello, perché anche se per qualcuno una condanna a 29 anni potrebbe essere ritenuta un avanzamento rispetto all'ipotesi dell'ergastolo, certamente è una sentenza che lascia insoddisfatti forse tutti. La verità è stata accertata, invece commentato il legale del marito di Giovanna Reggiani. Siamo soddisfatti perché la Corte ha accertato i fatti, secondo noi erano quelli che erano stati portati dal pubblico ministero. Mercoledì. Dichiara aperta la votazione dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto legge 1 settembre 2008 numero 137. Votazione aperta. Votazione chiusa. Il Senato approva. La voce che abbiamo appena riascoltato è quella del Presidente del Senato Schifani intorno alle 10.30 di mercoledì quando annuncia l'approvazione del decreto Gelmini sulla scuola. Ma è a pochi metri di distanza da Palazzo Madama che poco dopo proprio l'approvazione si scatena una battaglia tra gli studenti. Testimone diretta per Radio 24, Francesca Malaguti. Sono circa le 12.30 quando il presidio di Piazza Navona si trasforma da folla pacifica in rissa violenta. Un fronte di studenti medi delle organizzazioni di sinistra, a cui ha dato manforte il gruppo degli universitari, si dirige verso un angolo della piazza in cui si trova il camioncino del blocco studentesco di destra. Avanzano con i caschi in testa e le mani alzate. I ragazzi del blocco studentesco formano un cordone e dal nulla fanno spuntare spranghe, catene e caschi. Intanto i ragazzi di sinistra si sono armati con bottiglie e bastoni trovati sul percorso. Poi lo scontro. Volano anche le sedie e i tavoli di un ristorante. Dopo alcuni minuti la polizia interviene con i manganelli a sedare il tafferuglio. Sono 4 i manifestanti feriti, ma anche un funzionario e 2 agenti della polizia. 20 membri del blocco studentesco vengono identificati. Molti studenti presenti si dissociano. Quella gente non ha nulla a che fare con la protesta studentesca di questi giorni, nulla. E ci hanno rovinato la manifestazione. Adesso ritorniamo al Senato per rivivere quello che succede proprio nella giornata di mercoledì, soprattutto nelle ore successive all'approvazione del decreto Gelmini. Da Roma il servizio di Elisabetta Fiorito. Il decreto Gelmini diventa legge in mattinata e nel pomeriggio l'opposizione annuncia il referendum. Una seduta tranquilla nell'aula di Palazzo Madama, qualche sussurro e mugugno dell'opposizione, strette di mano e consueti applausi della maggioranza. Soddisfatta il ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini che annuncia un prossimo provvedimento sull'università, mentre il premier Silvio Berlusconi se la prende con la sinistra che a suo dire fomenta gli studenti. Nel pomeriggio però il segretario del PD Walter Veltroni lancia l'appello per il referendum abrogativo. Noi abbiamo deciso di promuovere un referendum abrogativo, un appello a tutte le forze del mondo della scuola in primo luogo e del mondo politico dell'opposizione per la costruzione nazionalmente in ogni città di comitati. Una scelta che provoca la reazione del ministro della difesa Ignazio La Russa. Oh, finalmente una buona notizia, anziché disinformazione, anziché notizie sballate, anziché agitare gli animi che portano anche a conseguenze pericolose, si fa un referendum, forse andrò a firmarlo. Giovedì è il giorno dello sciopero generale nel mondo della scuola, sciopero indetto da CGIL, CISL, UIL, SNALS e Gilda. I cortei sono in molte città italiane e secondo gli organizzatori la partecipazione è massiccia, si arriva addirittura al 1 milione di persone in piazza. Sentiamo il servizio di Roberta Pelegatta e poi il commento di Maria Piera Ceci. I cortei e le manifestazioni ieri in tutta Italia sono stati pacifici. Unica eccezione Bologna, dove la polizia, per fermare i manifestanti diretti verso la sede di un'industria, ha usato i manganelli. 5 ragazzi contusi, mentre una giornalista del Corriere di Bologna, colpita da una delle bottiglie lanciate nei tafferugli, è rimasta lievemente ferita alla testa. Nessun incidente nelle altre piazze. A Milano si sono ritrovati a decine di migliaia, tra studenti, insegnanti, lavoratori precari e anche bambini delle elementari con i loro genitori. Una giornata di slogan, cori, musica e striscioni. Quello in testa al corteo recitava Gelmini bocciata, studenti in rivolta. Una rivolta che non può dirsi conclusa. Sentiamo uno degli studenti delle scuole superiori in Piazza Duomo. La settimana prossima le mobilitazioni nelle scuole partiranno. Occupazioni, lezioni in piazza, picchetti. Dello stesso parere gli universitari riuniti in un sit-in a Piazza Affari. Vogliamo applicare la logica proprio che era passata in Francia, cioè la legge sul SEPE non è stata gradita dagli studenti, hanno bloccato tutta Parigi. Noi vogliamo far arrivare a far cambiare una decisione del governo scendendo in piazza ogni giorno. E nuove mobilitazioni sono state annunciate anche dagli studenti delle altre città italiane. Quelli di Genova, migliaia, hanno sfilato insieme al presidente della regione Burlando. A Palermo 2 cortei, uno interamente costituito da insegnanti e personale scolastico, binari bloccati a Brescia, Firenze, manifestazioni anche a Torino, Pavia, L'Aquila, Napoli, Bari, Lecce e Cagliari. Gli studenti, poche idee ma chiare. Chi non sa andare a Gelmini, eh? Gli insegnanti, qualche idea in più e gli occhi che brillano al ricordo delle manifestazioni che furono. Gelmini! Bacciata! Tre voti! Bacciata! I bambini, orecchie da somarello in testa, un po' frastornati. E tu perché sei qua a ballare? Perché c'è la manifestazione. Insomma, il decreto Gelmini l'avranno anche letto in pochi e soprattutto per i ragazzi avrà prevalso l'antica voglia di far casino, come dicono loro, e stare insieme. Del resto, mica li preferiremo quando girano per le strade a fare i bulli o tappati in casa, inchiodati al computer su Messenger. Sarà anche vero che alcuni sono pronti a menar le mani contro il primo che capita, lo studente di destra, il giornalista di turno, le forze dell'ordine. Tutto questo è sicuramente vero. Però ieri erano in tanti in piazza e allora non si può far finta di niente. Bisognerà tenerne conto ed ascoltarli. E non basta ricevere al Ministero 10 minuti le varie rappresentanze quando tutto è già deciso. Tanti studenti, tanti professori, tanti genitori sono in piazza in questi giorni a protestare contro la Gelmini, ma c'è anche chi è d'accordo con il ministro dell'istruzione e sulla sua volontà di cambiare la scuola e anche, va ricordato, l'università. Sentiamo la voce di uno studente pro Gelmini raccolta da Francesca Malaguti nella giornata di martedì. Sono i responsabili nazionali Alternativa Studentesca, un'associazione di studenti liberi che pongono come primo obiettivo la loro realizzazione personale, quindi l'essere promossi, l'andare avanti. Siamo perché chi occupa la propria scuola debba essere bocciato con un voto di condotta negativo. Noi siamo quelli a favore del ministro Gelmini. Su un noto social network, Facebook, ci sono qualcosa come 20 gruppi che superano i limiti del codice penale contro il ministro Gelmini. Ne cito alcuni: un gruppo con circa 30 membri chiede di staccare la testa del ministro Gelmini con una motosega. Questi gruppi sono da chiudere. Gli studenti che si dicono di destra, che stanno davanti al Senato, sono gli studenti di blocco studentesco, noti per fatti violenti nelle scuole di Roma, studenti noti per essere di un tipo di destra che non è la destra attuale. Non si possono chiamare di destra perché quelli non sanno nemmeno perché protestano. Protestano per gridare duce duce, voglio dire, è ridicolo. Ieri intanto ancora lezioni all'aperto in tante città italiane, mentre Napolitano è a Milano, dove incontra gli studenti della Bocconi e della Statale. A Roma invece il sottosegretario all'interno Francesco Nitto Palma informa alla Camera sugli incidenti di Piazza Navona di mercoledì. Il resoconto è di Adriana Fracchia. Emerge come, anche in questa circostanza, l'operato delle forze dell'ordine sia stato ispirato a criteri di equilibrio e di prudenza, cercando di contemperare, da un lato, i diritti costituzionalmente garantiti di riunione e di libera espressione del pensiero, e dall'altro quelli, ugualmente riconosciuti, della tutela della sicurezza e della pubblica e privata incolumità. Per Francesco Nitto Palma, dunque, nessuna responsabilità della polizia. Gli scontri più duri di Piazza Navona sono stati avviati da un gruppo di circa 400-500 giovani dei collettivi universitari e della sinistra antagonista, che a suo dire hanno affrontato gli esponenti di blocco studentesco, i giovani di destra. La polizia non blocca subito i tafferugli. Bilancio finale, una quindicina di entrambi gli schieramenti politici gli indagati e due gli arrestati. Per Walter Verini del Partito Democratico, la ricostruzione del governo non è abbastanza convincente. Si poteva prevenire, si poteva intervenire prima. Ecco, a questi interrogativi che attengono la possibilità e l'agibilità democratica in questo paese, si devono dare davvero delle risposte. L'ottavo giorno. Giovedì. Roma in questi giorni è teatro, l'abbiamo anche riascoltato pochi minuti fa, di scontri e proteste attorno alla questione spinosa della scuola e delle sue riforme. Ma è anche il tappeto rosso specialissimo sul quale sfilano attori, registi e protagonisti vari della mostra del cinema capitolina. La prima senza peraltro il suo inventore Veltroni Sindaco e la prima invece firmata da Rondi. Ogni giorno Marta Cagnola ci ha regalato servizi, critiche e interviste ai film proiettati. Tra i tanti abbiamo scelto questo. Jorge Ramirez è un infermiere presso un istituto psichiatrico. L'anziano romano, autistico, ha uno straordinario talento. Jorge decide di appropriarsi dei lavori dell'anziano e di proporli a una galleria d'arte, spacciandosi per l'autore. Diventa così famosissimo e apprezzato in tutto il mondo. È divertente e dissacratorio e l'artista degli argentini Con Duprat è interpretato dal bravo e simpatico Sergio Pangaro. E Sergio le sumo una cosa incredibile, meravigliosa, che fu... Él dice, mi personaje se tiene que parecer a Riquelme. Ustedes conocen al Sergio ha avuto un'idea fortissima, racconta Mariano Con. Si è ispirato al calciatore Riquelme, perché anche quando segna non sembra mai contento. Nel ruolo dell'anziano romano, uno dei più importanti scrittori argentini, per la prima volta alle prese con la recitazione, Alberto Laiseca. Una delle migliori pellicole in concorso al Festival del Cinema di Roma. Tra i film più attesi ma anche contestati c'è Il sangue dei vinti, a sua volta scaturito dal libro omonimo di Pansa, oggetto pure quello di pesanti critiche a suo tempo. Sentiamo il servizio di Paolo Panceri. Il sangue dei vinti racconta di esecuzioni e crimini compiuti da ex partigiani dopo il 25 aprile 45 verso fascisti o antifascisti non comunisti, soprattutto nel cosiddetto triangolo della morte fra le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia. Il film, come il libro uscito nel 2003, è destinato a riaccendere le discussioni su questo periodo storico. Giampaolo Pansa ci spiega come a suo giudizio sia possibile uscire dalle polemiche. Se ne può venire fuori a una condizione che tutte le parti che allora si sono scontrate, i loro eredi, dicono la verità, mentre invece devo dire che hanno sempre raccontato o delle bugie o delle verità dimezzate. Da parte degli ex partigiani i giudizi sui libri di Pansa sono piuttosto severi. Sentiamo Gianfranco Maris, 87 anni, vicepresidente nazionale dell'Associazione Partigiani. Ha combattuto nelle Brigate Garibaldi dopo essere stato deportato a Mauthausen. Che cosa imputa Pansa? Di non fare più della storia. Rumina sulle cose già dette mille volte, perché non è vero che dico una verità che è sconosciuta. Batte un sentiero che è stato ampiamente battuto e che è noto, notissimo. Tutti i festival, quindi anche quello di Roma, deve naturalmente alla fine, nel giorno conclusivo, assegnare i suoi premi, decretare i suoi vincitori. Avviene così anche questa volta, quindi sentiamo l'intervento in diretta ieri alle 19.30 dell'inviata Marta Cagnola. Abbiamo l'elenco ufficiale dei premi del terzo festival del film di Roma. Eccoli qua. Allora, i premi del pubblico vanno. Il premio del pubblico, il Marco Aurelio d'oro del pubblico va a Giacomo Battiato per Resolution 819. Cosa è piaciuto di questo film? Beh, è un film che racconta un tema molto molto delicato, che è quello del massacro di Srebrenica del 1995 e in particolare della ricerca delle prove dopo questo massacro. Certo. Quindi un film delicatissimo e molto molto crudo. E poi ci sono i premi invece della critica. Sai perché io stavo dicendo il Marco Antonio? Perché tutti hanno preso in giro Gina Lollobrigida perché hanno detto che lei voleva il Marco Antonio e non il Marco Aurelio, e siamo d'accordo con lei. Speriamo per il prossimo festival. Invece i premi della critica che sono stati istituiti quest'anno dal presidente Gianluigi Rondi sono, come dicevamo, già le indiscrezioni lo dicevano, Donatella Finocchiaro, bravissima in Galantuomini di Edoardo Winspear. Poi, io lo pronuncerò malissimo, ahimè, Bogdan Stupka del film di Christoph Zanussi Con il cuore in mano. E poi invece il film preferito dalla critica, un film afghano, Opium War, di Siddiq Barmak. Anche qui mi scuso per la pronuncia. Venerdì. Dopo aver sentito i verdetti sulla mostra del cinema di Roma, restiamo nella capitale perché ieri si celebra proprio a Roma la giornata mondiale del risparmio. Per Radio 24 l'ha seguita Vincenzo Miglietta. Crisi finanziaria, riflessi sull'economia reale e ruolo delle banche al centro degli interventi alla giornata mondiale del risparmio. Il governatore della Banca d'Italia Draghi parla di stagnazione in atto che proseguirà almeno fino a metà del prossimo anno. Occorre innanzitutto evitare che la crisi si traduca in una severa contrazione dei flussi di credito all'economia reale. In secondo luogo è necessario attivare efficaci politiche di sostegno che contrastino le tendenze recessive in atto. Di fronte alla crisi finanziaria, aggiunge il governatore, l'intervento dello Stato deve essere temporaneo e non intrusivo e si dovrà pensare a tagliare il peso delle tasse sui depositi. Le banche stesse, ammonisce Draghi, dovranno comunque prestare maggiore attenzione alle esigenze delle famiglie in difficoltà. Poi un messaggio rassicurante ai risparmiatori. La solidità dei bilanci bancari e chiari impegni delle autorità garantiscono la stabilità del sistema. I depositanti delle banche sono al sicuro. Sul rapporto tra Stato e mercato finanziario interviene anche il ministro dell'Economia Tremonti. Avere azioni di banca può essere solo una transitoria, strumentale necessità, ma non è e non può essere una sistematica, primaria realtà. Il sistema delle banche è solido, commenta dall'ABI Faissola. Infine il presidente della Repubblica Napolitano che dice la gravità della situazione impone l'assunzione dei provvedimenti più immediati. Più o meno nelle stesse ore della giornata mondiale del risparmio viene fuori un sondaggio di Confesercenti SVG che offre un'immagine preoccupante del nostro paese. Infatti 84 italiani su 100 arrivano a pagare con difficoltà la rata del mutuo o del prestito e il 64%, quindi una percentuale molto significativa, esclude categoricamente di accendere mutui per il prossimo anno. Questo mentre invece sul fronte dell'inflazione arrivano buone notizie. Valeria De Rosa. La flessione era prevista a ottobre su base annua, l'inflazione si è fermata al 3,5%. A settembre, sempre su base annua, era al 3,8%. Mese su mese, però, la variazione è stata nulla. Decisivo l'impatto dell'energia, che ha segnato una flessione notevole rispetto a settembre. Gli aumenti più significativi sono stati quelli di abitazione, acqua, elettricità e combustibili, seguiti dal capitolo istruzione e prodotti alimentari. In calo i prezzi dei trasporti, comprensivi dei carburanti e le spese per la salute. Si sgonfiano due focolai che sono quelli che hanno tenuto alta l'inflazione nel 2008, da una parte quello dei prezzi dei prodotti alimentari e dall'altro quello dei prodotti energetici. Questa è l'analisi di Donato Berardi, economista del REF, anche se a dire il vero sul fronte degli alimentari, se il prezzo del pane è diminuito, non altrettanto si può dire del prezzo della pasta, la cui corsa continua senza freni, più 32% rispetto a un anno fa. In attesa che la flessione dei prezzi delle materie prime arrivi fino al prodotto finale, i consumi continuano a calare. Per ora non si può dire che questo sia già il frutto di un rallentamento dei consumi, però i destini per i consumi sono un pochino segnati per il prossimo anno. Come al solito è piuttosto difficile scegliere quali notizie ricordare qui all'ottavo giorno tra le tante che affluiscono in campo economico. Noi abbiamo scelto le mosse della Fed di mercoledì in questo servizio di Simone Spezia. Mezzo punto in meno, ai livelli che non si vedevano da 5 anni. I tassi in America sono da ieri all'1%, ma la testa di chi opera sui mercati è già rivolta ad altro. In chiusura di seduta il Dow Jones e lo Standard & Poor's lasciano sul terreno lo 0,82% e l'1,1 rispettivamente. Secondo un vecchio mito di Wall Street, quando vanno male le cose per General Electric, anche per il resto del mercato c'è poco da fare e GE ieri ha diffuso previsioni negative sugli utili. La realtà è che gli occhi sono rivolti alla giornata di oggi, quando un dato sul prodotto interno lordo, stimato in calo dello 0,5% nel terzo trimestre, potrebbe certificare quella recessione che tutti si aspettano, ma che finora è stata poco più che sussurrata. E che anche la Federal Reserve, nella nota che accompagna la decisione di politica monetaria, fa presagire. Parole chiave: marcato rallentamento dell'attività economica, declino dei consumi, indebolimento degli investimenti. Mentre anche in Europa la BCE starebbe pensando ad un taglio dei tassi per la riunione del 6 novembre, oltreoceano ci si chiede quanto e se quelli americani possano scendere, se sia il caso di percorrere la stessa strada, ossia agire con energia sulla politica monetaria a cui molti imputano la crisi di oggi. E giovedì, come accennava Simone Spezia nel servizio, arrivano i dati ufficiali sul PIL americano. Si tratta del peggior risultato degli ultimi 3 anni, con una perdita dello 0,3% nel terzo trimestre, anche se tecnicamente non si può ancora parlare di recessione. E noi chiudiamo questa nostra puntata dell'ottavo giorno con l'ottava notizia della settimana, che ci porta a parlare di sport. Ricordo che domani sapremo finalmente chi vincerà il mondiale di Formula 1 tra Massa e Hamilton, tra la Ferrari e la McLaren, ma noi torniamo indietro a martedì, quando si viene a sapere che il nuovo allenatore dell'Argentina è lui, il più grande giocatore forse di tutti i tempi, Diego Armando Maradona. Da Buenos Aires il servizio di Emiliano Guanella. Il governo che nazionalizza le pensioni private, il dollaro che cresce pericolosamente, il rischio di default che ritorna come 7 anni fa, effetto della crisi finanziaria globale. L'Argentina soffre e aspetta la tempesta che arriverà sui paesi emergenti, forse ancora più pesante che nell'emisfero nord. Ma arriva Maradona, proprio lui, il 10, a salvare una nazionale di calcio in difficoltà, poco gioco, pochissimo spettacolo, nonostante i campioni sparsi per il mondo. Maradona in panchina, il suo ex allenatore a Messico 86, Italia 90, Carlos Bilardo come manager, e i tifosi argentini che si entusiasmano e si dimenticano dei problemi che li circondano. Il Pibre ora ha sbaragliato la concorrenza del pluridecorato Carlos Bianchi, campione ovunque col Boca Junior, ma da tempo contro i dirigenti della federazione locale. Diego, da allenatore, ha fatto poco e male, propenso da sempre favoritismi, uomo di steccati, di amici e di nemici, ma è pur sempre un mito che cala sul posto più importante da queste parti, dopo quello del Presidente della Repubblica. Di sicuro non basterà cacciare le nuvole gonfie di crisi, di sicuro per lui sarà un lavoro complicato, ma i miti arrivano e vengono chiamati nei momenti più difficili, sul campo e fuori. La parola ora Maradona, scusate se poco. Ottavo giorno finisce qui, ringrazio Paolo Corleoni in regia, ricordo la mail a cui potete scriverci, ottavogiorno@radio24.it. Da parte di Emiliano Enrico l'appuntamento è alla settimana prossima alla stessa ora, sempre su Radio 24.